grazie per avermi invitato. Non so se proprio parlerò di immediatamente di modernità multiple. Vorrei fare una... La mia riflessione parte dallo spettacolo degli antagonismi tra religioni, per poi antagonismi originari e difficilmente superabili, per poi proporre una riflessione finale, ecco, che effettivamente corrisponde un po', anticipa un po' delle cose che sto pensando, su cui sto lavorando. Quindi sarà veramente una conversazione molto aperta, spero di essere abbastanza chiaro ed efficace. Vorrei appunto partire da riflessioni molto, molto negative per me sul quadro offerto recentemente dalle religioni monoteiste soprattutto. Ho svolto una riflessione che si riverserà, sta per riversarsi in un volume, un bel libro, un bel volume degli Annali di Storia dell'Esegesi, una rivista che facciamo a Bologna con un titolo molto dotto e tecnico, ma in realtà è una rivista in cui ci sono tante cose, e abbiamo un volume che si chiama Lettere sui monoteismi, un volume che è nato attorno a una riflessione che io ho fatto in prefazione alla versione araba di un libro fatto da me e da Saverio Marchignoli, che si chiama Un percorso etico fra culture. Un amico di Tunisi l'ha proposto a un editore libanese, l'abbiamo tradotto e ho fatto questa prefazione. Quale sia il risultato veramente non so, però in questa prefazione c'è una epistola al mio amico: caro amico, tu mi hai chiesto sul modo un po' delle cose antiche, arabe, mi hai chiesto di introdurre questo volume con con delle considerazioni sulle religioni, sui monoteismi, e le considerazioni che faccio sono molto, molto critiche, perché mi pare che il problema di fondo sia questa pretesa di rappresentare il divino, rappresentarlo dandogli una forma in qualche modo visibile, rappresentarlo nel senso di avere i poteri, le chiavi, no? Per esprimere la volontà e la decisione divina, rappresentarlo addirittura nell'azione, facendo al posto di Dio. Questo stare al posto di, ecco, è il punto critico che io sottolineo in questa introduzione. In questa rivista ci sono degli interventi interessanti, c'è Jan Assmann, ci sono parecchi studiosi arabi, Arkun, Haddad, Redissi, e poi degli amici come Pesce, come... Lì alla fine c'è una via di uscita, cioè c'è uno studio mio su quello che dicevo sull'Imago Dei, perché ritengo che, faccio un po' di digressioni, ma insomma, ritengo che in realtà, digressione, per me il monoteismo è una forma teocratica. Non è affatto vero che ci sia una distinzione tra cristianesimo e islam. Fondamentalmente Dio regna. Dio regna, vuol regnare, ecco, direttamente attraverso i suoi profeti. Bene o male, può piacere o non piacere, però l'ostilità verso il potere umano è grandissima. Ecco, salvo che viene affidato, salvo, quindi contro ogni forma di rappresentanza, salvo l'umano come tale. Cioè in Genesi 1, 26 e 28 viene affidato il potere o il dominio all'uomo come tale, come immagine di Dio. Quindi questa è una correzione a quella che per me però è il punto critico fondamentale, la pretesa dei monoteismi ebraico, cristiano, islamico, di rappresentare. sia quindi rappresentare nel senso di prendere il posto di, sia da vorstellen vertreten e forse la rappresentazione, sì, e sì, la rappresentanza, la vertretung e la ecco, quindi tutte queste cose consiglia l'immaginazione che il potere è anche proprio la, addirittura la rappresentanza politica, quindi forse addirittura rappresentanze. Allora, quindi vengo da questa esperienza intellettuale molto, molto intensa e molto critica. Siamo in un contesto amicale, anche un'esperienza umana, diciamo, anche di malattia, in cui ho visto che non mi serviva per niente la religione, nel senso di un rapporto personale, mi serviva molto, molto, molto di più lasciare andare e non prendere posizioni, ecco. Vabbè, questo, anche questo però è importante, insomma. In più, a maniera più analitica, in questa mood, in questo stato d'animo molto, molto negativo, c'è stato il lavoro che ho fatto per fare l'edizione italiana di quel volume che si chiama Terrore al servizio di Dio, Terror im Dienste Gottes, di Kippenberg e Seidensticker. Abbiamo fatto una edizione italiana bella, con Quodlibet, col testo a fronte arabo italiano, sì, con intervento sia di Kippenberg, di Heidegger, migliorata, aggiornata. Insomma, un documento molto impressionante, perché è un documento, io credo, autentico. Poi lì attorno c'è una quantità di discussioni pazzesche su quello che è accaduto, eccetera. Però questo documento mi sembra un documento autentico che passa il vaglio della miglior filologia tedesca. Quindi questo per me è interessante, più di tante cose intorno. E comunque è un documento religioso intenso, cioè gente che dice, che svolge questo compito, questa missione, senza odio. Ovvio. Se fosse un documento falso ci sarebbe una carica di improperi verso l'imperialismo. Sono persone che pregano e che svolgono il compito. Gli attentatori, dicono, sono gli hijackers, non sono gli attentatori. Questa cosa mi ha lasciato veramente di stucco, sono rimasto veramente impressionato. Perché non c'è, poniamo pure che non sia autentico, comunque la Sura 8, la Sura 9 sono autentiche a loro modo, e l'ispirazione è quella. Però anche nei confronti di Israele devo dire, anche a me, dei moti di disgusto per questa violenza, per questa presenza religiosa molto forte nell'esercito. Leggo che un gran numero di soldati, 30%, sono religiosi e ancora di più ufficiali, quindi si nutrono degli amaleciti, di tutte queste storie della Bibbia, insomma. Sì, veramente, no, mentre una volta gli ortodossi si sottraevano al sionismo e dicevano no perché solo Dio, eccetera, adesso vanno. Quindi io sono molto impressionato. E poi anche nel confronto del mondo cattolico, naturalmente non ci sono più gli eserciti, ma c'è uno spettacolo di insensibilità terribile di fronte, di ossessione legalistica e al tempo stesso mi sembra insensibilità alle reali sofferenze, una missione di crudeltà e di disumanità profonda, mi sembra. Ecco, questo è il sentimento mio di fronte alla realtà religiosa offerta dai monoteismi. Ma anche, prescindendo dagli aspetti decisamente negativi, seconda parte del discorso, va riconosciuto come un fatto che gli ultimi anni presentano un quadro in cui, enuncio poi sviluppo, le religioni mondiali emergono con forza da protagoniste con tutta la loro originaria e ineludibile carica antagonista. Secondo, si acuisce il conflitto tra religioni e prospettiva laica, diciamo. Cresce l'opposizione tra due accezioni del religioso, l'accezione integralista, l'accezione umanistica. Quindi, secondo momento, una riflessione su questi antagonismi. Allora, ecco, non c'è mai stata una stagione in cui ebraismo e Islam conteggino tranquillamente, a viso aperto, in questo modo, no? Il cristianesimo e il cattolicesimo. Però è inutile, occorre dire che c'è un antagonismo originario e c'è un definirsi per opposizione di queste grandi religioni. L'ebraismo si definisce per opposizione rispetto all'Egitto, l'uscita dall'Egitto, l'idolatria, eccetera, no? Con una pittura estremamente poi violenta, cioè, il libro della Sapienza, una volta disse ad Assmann, però la Sapienza è un bel libro, non parlarmene, leggi la seconda parte, un disastro, tutte le piaghe, no? Con, quindi ecco, un libro carico di anche questo, ma io amo molto il tema della Sapienza, così come idea dolce e... E mi ricordo quando, ti ricordi l'antifona del Natale, d'un medio silenzio tenere te nox, nel mezzo della notte la tua potente parola discese, si leggeva nel Natale, fa ancora adesso. In realtà è la descrizione della spada di Dio che va a trafiggere i primogeniti. Un testo stupendo, un'antifona bellissima del Natale. Accidenti, cioè c'è una definizione per antagonismo, no? Con il cristianesimo si definisce per antagonismo rispetto all'ebraismo, i testi sacri, il Nuovo Testamento è pieno di Giovanni, è carico di risentimento, ma di odio, o iudaio, è impressionante, l'Apocalisse è lo stesso, come si fa? Cioè i testi dell'amore sono in realtà carichi di violenza, di ostilità. Io ho studiato, forse lo ripubblichiamo, ho fatto un libro, Il Vitello d'Oro, no? In cui si studia come la polemica antigiudaica che ha nella idolatria, l'accusa di idolatria come una, in un certo senso, questa carnalità del popolo è ancora primordiale rispetto al deicidio, cioè non riconoscono il Messia perché sono carnali, perché hanno commesso il loro peccato originale che è in Esodo 32, nella descrizione del Vitello d'Oro. L'Islam si definisce per opposizione all'ebraismo e al cristianesimo con dei tratti anche di grande violenza già contenuti nel Corano stesso. Oggi questo, mentre una volta queste cose, cioè c'era un'egemonia del cristianesimo, c'era una situazione di depressione dell'Islam, c'era una situazione di minoranza e di emarginazione dell'ebraismo, adesso tutte queste cose vengono fuori con chiarezza, bisogna vedere i siti, bisogna vedere cosa si scrive nei siti. È anche carino, cioè ho visto per esempio della sinossi in cui ci sono le ragioni di Gesù e le ragioni di Mosè. Gesù è egoista e Mosè invece è veramente altruista. Cioè, ci sono delle confutazioni vere e proprie, no? In rete, no? Tutte delle cose anche carine perché uno impara e finalmente la gente parla e si esprime. Però anche ci sono cose, no, per esempio anche no, il Papa che usa Neusner, no, nel suo libro, parla con questo rabbino, discute con lui, alla pari, è bello, cioè, questo antagonismo viene fuori, no, nessuno più accetta con tranquillità nulla da parte dell'altro, mentre una volta si faceva così, c'era una situazione di timore, adesso è finito e va bene. Il secondo punto, c'è un conflitto, un antagonismo antico che viene fuori tra religioni e prospettiva laica, filosofica, no? Questo è una cosa antica, pensate al Contraccelso di Origene, no? Antica apologetica, poi avanti, avanti, ma oggi viene fuori con molta forza. Ho visto questo Religulus, che non è un bel film. Ci sono alcune cose carine, per esempio il museo dell'antievoluzione, no? C'è un impressionante opporsi delle prospettive tipo di Freddi, no? E invece prospettiva religiosa. E poi opposizione fra due accezioni del religioso. Una vista umanistica, quella che almeno io conosco, che amo, ho studiato soprattutto questa, no? Ho studiato appunto il Pico della Mirandola, prima di lui c'era Marsilio Ficino che parlava di docta, religio, pia, filosofia, no? Pico che presenta, che dice ognuno ha un suo stile, ogni filosofo è meritevole, ma ogni pensatore, appunto, questi sono persone che sono totalmente aperte a qualsiasi forma di pensiero. Pico comincia la sua razio dicendo ho letto nei documenti dei saraceni, eccetera, eccetera, eccetera, e cita un misterioso Abdallah, 1486. I saraceni erano in pericolo, i turchi avevano preso Costantinopoli. Comincia con Abdallah, il manifesto del Rinascimento. E io ho studiato appunto poi avanti i radicali cristiani, i quaccheri, con la loro visione dell'illuminazione universale. Poi ho studiato Tolstoi, Schweitzer, Simone Weil, tutti queste correnti, diciamo, di cristianesimo, di religione, religiosità umanistica, in un certo senso anche lo stesso amore di Freud per almeno fin quarto, no? Ricondurre Mosè a questa figura egizia, professo, ma anche questo fa parte delle cose che ho studiato che mi piacciono molto, ma c'è poi invece tutta una accezione integrista, fondamentalista del cristianesimo in cui tutto è dall'alto, tutto soprannaturale, in cui mentre invece almeno la corrente a cui sono stato abituato è vedere sorgere dal basso, no? Sorgere istanze, proposte, segni dei tempi. Questo era poi, ecco, il segno di Roncalli. Io mi ricordo quando studiavo a Roma e frequentavo Felice Balbo, non tanto, ma un po', e feci un po' prima che noi ci vedessimo, ero ancora al Collegio Lombardo, feci una cosa sulla teologia, sul metodo teologico, e lo presentai a Padre Calatti. Lui disse non me ne intendo mai, vai da Balbo. E poi venimmo a parlare e mi indicò Gilson come una lettura fondamentale, per me fu decisivo, insomma, Être l'essence. Ma erano i giorni in cui veniva eletto Paolo VI, nel 63, erano giorni quindi del giugno, non so, del... E io dissi, ah, che bello. E lui disse, no, perché l'altro c'era uno spontaneo svilupparsi dalla natura alla grazia, diceva, c'era una armonia spontanea, invece questo più... Ecco, io vorrei questa armonia tra dimensione religiosa e naturale, ma l'impressione è che invece questo sia molto difficile, sia difficile comunicare. Questo per darvi l'idea, ecco, della situazione di questi antagonismi che sono in atto tra le religioni e all'interno, tra le religioni, tra una religione e la prospettiva invece critica e agnostica, all'interno della religione. Potrei moltiplicare gli esempi, no? Lo stesso vale per, ho studiato un po' nell'Islam Mohammed Abdu, che è un riformatore, quest'uomo era anche un mistico, era anche uno che aveva una, per dire, erano anche, lui e l'Afghani erano anche massoni. Metà dell'Ottocento vuol dire una cosa diversa di quello che può essere adesso, voleva dire accettare un registro, accettare un linguaggio che era universalistico. E questi sono all'origine del modernismo arabo. Questo non si dà più oggi. Allora, la terza parte della mia esposizione vuole indicare delle risposte possibili. Io sono sempre uno studioso militante, quindi mi preoccupo sempre di vedere come si può fare. E del resto il mio percorso è sempre stato un come si può fare, quello di studiare le cose, ma anche come si può fare. E fu per me decisivo quando fu ucciso Moro, ho avuto la domanda, ma cosa stiamo a fare? E fu anche un po' la rottura con l'ambiente da cui ho ricevuto tanto e a cui sono tornato, cioè l'ambiente, diciamo, Berigo, Dossetti, Fondazione per le Scienze Religiose, eccetera, che erano persone veramente impegnate nel campo della riforma della Chiesa, del Vaticano, prolungare gli effetti della ricezione del Vaticano II, eccetera. Io a un certo punto dissi, non posso più, perché ci sono delle urgenze, bisogna poter parlare a tutti, bisogna poter chiedere a tutti delle cose fondamentali, e per me quello fu il momento in cui cominciai a lavorare nei diritti umani, quindi nel 78 in Amnesty International, poi. Ecco, di lì cominciò una riflessione sulla possibilità di un consenso etico fra culture, perché mi chiesi, ma un musulmano come può accedere ai diritti umani nella sua cultura? Ci sono delle risorse che possono portarlo a questo? È un cinese, come possiamo spiegargli le cose? Il Dharma indiano è forse l'equivalente, del, come dice Panica, dei diritti umani, o forse no, io non credo, ecco. Però queste cose qua mi occuparono e mi occupano. Quindi, ecco, non uccidere, non torturare, e che tutti possono dire. Io, c'è un momento in cui, come dice Julien, no, il saggio è senza idee, io ho sempre meno opinioni. Però, ecco, invece non ammazzare e lasciare che tutti parlino, questa è una cosa che ho ben chiara, cioè che tutti possano esprimersi, perché magari viene qualcuno una buona idea anche, no? Tutti possano, quindi lasciare che tutti dicano. Mi sembra anche molto utile il lavoro che fa Hans Küng, una delle cose che ho fatto lavorando di nuovo alla Fondazione per le Scienze Religiose di Bologna, e un rapporto con la Weltethos Stiftung di Hans Küng, che fa un lavoro importante di dissodamento e di avanguardia. Lui ha una Fondazione per l'Ethos Mondiale, ha una dichiarazione per l'etica delle religioni, ethos è una cosa un po' diversa, insomma. Però, ecco, mi sembra ancora più fondamentale il tema comunque della rinuncia alla forza, insomma, il tema della veil, il tema del, appunto, che appunto distinguere tra forza, potere, potenza, tutte queste cose, credo che sia un bel tema fondamentale, perché ci vuole la forza. Ma non deve essere una forza senza armi. Su questo rifletto molto, perché io lavoro anche con gli amici quaccheri, in cui dal 1650 hanno elaborato il rifiuto delle armi, quando George Fox lo invitavano a diventare un ufficiale del New Model Army, dell'esercito repubblicano. Lui diceva no, dispiace, ma inutile che mi facciate complimenti per la mia virtù. Io la virtù la intendo in maniera diversa. E faceva riferimento al fatto di lavorare su se stesso e abbandonare le passioni, l'avversione, eccetera. E si riferiva all'alleanza noachica, alla Genesi 8, dell'arcobaleno, che poi figura sulle nostre bandiere per la pace. E alla fine lo prendevano a calci, a pugni, a schiaffi, eccetera, e applicava, senza dirlo, senza proclamarlo, la non resistenza al male. Comunque, insomma, ecco, la rinuncia alla forza per me è un fatto decisivo. Poi tutti dicano ciò che vogliono. Una settimana fa c'era Toni Negri in facoltà, diventato da Mezzadra. Devo dire che sono stato l'unico della facoltà che è andato, fronteggiato tranquillamente, lui e tutti i suoi amici, però il punto fondamentale era questo, cioè la potenza. Cosa vuoi dire per potenza? Cosa intendi per potenza? Io di fronte a me, quando faccio la meditazione al mattino, un libro di Evola che dice l'uomo come potenza, è questa cosa qui. No? Sì, cosa vuol dire potenza? È un convegno su Spinoza, interessante. E poi ho citato un testo che mi piace moltissimo, c'è una laude di Jacopone da Todi, è straordinario, è meglio di Dante. E il discorso che fa sulla povertà è un discorso straordinario perché lo porta al di là della dimensione dell'impoverimento materiale, via via, via via, arriva fino a Dio che è non è. Nichil. Un discorso stupendo, veramente. E nell'ultimo stadio si abbandona anche la virtù, e anzi è meglio il superbo dell'umile, cioè tutto viene rovesciato. Straordinario. Però ecco, in questa situazione, che poi a dire il vero, ci penso, ha segnato tutta la mia vita, perché a Casale Monferrato, la città di Pansa, no? Ma noi abbiamo vissuto lo spavento della guerra civile, insomma, comunque dei partigiani e dei fascisti che erano nello stesso cortile, quei cortili piemontesi. E io non sapevo veramente, non ero una famiglia militante. E poi la guerra, mi ricordo la guerra della Corea, la guerra di Corea, e noi eravamo in vacanza in Austria, c'era un signore comunista che sentiva la radio e diventava tutto rosso quando vincevano i coreani, e i miei invece erano molto perplessi da dir poco, e dicevo, ma questo signore è un signore simpatico. Ma com'è questa cosa? E quindi i russi, gli americani, tutta la vita a pensare. Quindi insomma, il problema della... E poi papà e mamma che non andavano d'accordo. Quindi il problema della concordia in realtà è un problema, perché mi ha sempre segnato, insomma, come è possibile... Qual è la posizione da assumere di fronte agli antagonismi in cui forse hanno ragione tutte e due, in cui forse c'è una verità. E qui no, vi presento un po' la riflessione ultima che sto facendo. La mia riflessione, ecco, mi porta a pensare, la riflessione parte soprattutto, va bene, ve la racconto come è nata. Facciamo lì in fondazione, ha proposto uno studio sulla interpretazione del famoso testo della creazione dell'uomo a immagine di Dio, perché appunto ritengo che sia un testo molto importante, è un testo in cui si parla di potere, di rappresentanza, nell'unica maniera che secondo la Bibbia in realtà è lecito, cioè l'umano semplicemente è imago Dei. Inoltre, nella modernità, tra Pico e Locke, la lettura di questo testo, sulla linea appunto soprattutto del orizzontale, diciamo, no? Il rapporto con Dio, è importantissimo. Ci sono due letture che confliggono, entrambe, ecco il punto, entrambe plausibili. Una è una lettura escatologica, carismatica, incentrata sul Messia, se uno è cristiano, oppure anche incentrata sul ruolo di Israele, cioè Adamo è prefigura queste realtà che danno ad Adamo la loro verità. La verità di Adamo è in Cristo, oppure in Israele, oppure nell'Islam, nella Umma. No? E poi c'è una lettura invece ontologica, filosofica, che è quella che è la mente umana, cioè la lettura in cui l'imago Dei è nella mente, mentre nell'altra l'imago Dei. Quindi sono due letture entrambe plausibili, ma questa cosa che sono entrambe plausibili può andare molto avanti, cioè la lettura che fa Mauro Pesce, l'amico Mauro Pesce, non so, di Gesù, una teoria antropologica, anche l'ultimo libro è molto più bello naturalmente dell'intervista con Augias, però ha molto meno successo. Oppure la lettura, non voglio dire di Ratzinger, perché è una cosa vecchia, è una cosa noiosa proprio per noi, proprio non. Però insomma letture spirituali in cui uno prende queste storie, no? Ne trae un alimento vitale, cioè, perché no? Perché non sono vere? Perché è solo vera la roba antropologica di Mauro Pesce? Perché è solo vera quella? Cioè ci sono tipi di verità, è vero questo, ma è vero anche quello, sono tutte e due vere. Ovviamente ci sono poi dei punti di conflitto, perché una cosa non è accaduta, come fai? Difficile poi ricavare da queste le verità, bisogna stare attenti. Ecco. Però, ecco, diciamo, la lettura scientifica e la lettura, come facevano i padri della Chiesa o i rabbini, la lettura allegorica, in cui aliud dicitur, aliud intelligitur, lettura spirituale. Perché no? Io ho scritto un libro su questo, si chiama, poco faccio tutta la bibliografia, l'interpretazione infinita è su questo, è un libro su questo, cioè come i padri traessero via via sensi nuovi, scrittura cum leggente crescit, la scrittura cresce con colui che la legge, e divina eloquia cum leggente crescunt, le parole divine crescono con colui che legge, oppure Agostino che dice la scrittura ti accompagna lentamente a piccoli passi quando sei bambino, poi Gregorio Magno che parla della scrittura che vola se il lettore vola, e tutto, anche tutto questo è vero, perché non è vero questo? Quindi è vero, ma è anche vero questo tipo di cosa che mi accompagna sempre. Ecco, io sto perseguendo la linea di qualcosa che esiste naturalmente, già che non scopro io, ma che è una terza posizione che comprende queste due, ed è la posizione mistica. Nella prospettiva mistica, che ho trovato ben rappresentata nelle cose di Pico, ma Pico rinvia a Proclo e Proclo rinvia ancora più indietro, insomma. Pico dice omnia in omnibus modo suo, tutto e in tutto a suo modo. E lì ho capito Leibniz allora cosa voleva dire. Cioè è una visione in cui il significato di una cosa ci sono nel libro di Lotman, c'è un saggio bellissimo quello sulla idea di semiotica, insomma c'è un modo di organizzare. No, quello molto prima, quella raccolta in Audi. Allora dice, il significato di una cosa può essere paradigmatico, cioè c'è una parte che dà significato al tutto, quindi applicata alla teologia è, cioè, il Messia dà significato al tutto. Ci può essere una prospettiva sintagmatica in cui il significato viene dal mettere insieme le parti e quindi le varie religioni, è una luce, ma sono tante luci. E poi c'è la prospettiva mistica, che però ha delle caratteristiche precise, va acquisita attraverso un percorso spirituale, che dice in tutto c'è luce, in tutto c'è la luce, in ogni cosa c'è la luce. No, quindi la posizione inclusiva che alla fine si appella all'esistenza singolare come mistero, come qualcosa che è dato, come grazia, come qualcosa che appunto si attinge solo, hanno attinto solo, si può attingere, ma attraverso un lavoro su di sé, un vero rivolgimento, come nella caverna platonica si esce fuori attraverso un grande sforzo, attraverso un'uscita, no? verso la luce. Non è che si veda poi l'essere che si vede fuori, o il bene, non è Dio, no? Forse è proprio questa cosa qua, forse la capacità di intendere l'essere, il vero, il bello, in ogni cosa, omnia in omnibus, modo suo, per cui è un livello in cui c'è solo la realtà nella sua bellezza, nella sua verità, di cui fa parte anche, per chi ci crede, anche il principio creatore, ma anche questo fa parte, di cui fa parte anche il soggetto. Questo è il tipo di pensieri che vado coltivando. Allora là una modernità multipla potrebbe essere nella direzione di recuperare un modo di porsi al di là delle opposizioni. Non è un modo dialettico, secondo me, anche se non va svalutato e anche se il discorso è una roba intellettualistica, non lo so, perché è vero, Plotino era intellettualista, non lo so, forse era un intellettualista, Hegel era intellettualista, non lo so, può darsi che avesse una... Cioè non bisogna disfarsi facilmente di questo dicendo, però ecco, la prospettiva spirituale è una prospettiva che va oltre sia la dimensione, la valorizzazione dell'individuale nella sua materialità anche simbolica e una visione scientifica complessiva, è qualcosa, un terzo modo di porsi che dice è vero, ma è ancora più vero. Scusate l'oscurità, ma sono cose che probabilmente si possono trattare solo con una certa oscurità. Ma mettendomi l'ultima cosa, in questo punto di vista capisco i tentativi fatti, capisco, capisco Leibniz, per esempio, che cos'è una monade, cioè, e questa omnia in omnibus. Capisco certe cose del Rinascimento, capisco anche i mistici, anche se la mistica è molto segnata poi dalla sua provenienza, quindi una mistica cristiana è molto devozionistica, è molto bactica nel mondo indiano, quindi io non riesco a seguirla tanto, però la provenienza segna. Quindi ritrovo tante esperienze, tanti modi con cui le persone, Spinoza, hanno cercato di pensare, i quaccheri, gli amici hanno fatto pensare questo, tutte queste, Schweitzer, che non è poi riuscito ad andare molto avanti, ma aveva avuto queste percezioni nel suo grande libro sulla mistica di Paolo. Ecco, quindi secondo me la modernità è, può essere in questo modo di pensare il molteplice in maniera diversa, non antagonistica, positiva, recuperando dal passato posizioni. Lo stesso, un tipo come Panikkar, è un teologo cattolico, così. Ma solo così lo capite, perché altrimenti è un guardabuglio. Ecco, solo così capite che cosa vuol dire. Quando dice sono cristiano, sono buddista, sono induista, solo in questa prospettiva. Con una prospettiva dobbiamo rivendicare la sua legittimità. Però sapendo che poiché alla fine appunto non è possibile enunciare queste cose, sono cose che vengono enunciate secondo il linguaggio dato. Il linguaggio di Roncalli non è il linguaggio di Panica, non è il linguaggio di Schweitzer, non è il linguaggio di Thich Nhat Hanh, questo grande maestro buddista in cui ho imparato molto.